هسه في الوطن من اجل دمك اخي ارقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمة تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لن تختفي اخي لا يتخلد اسمك في غزتي اخي صاحب العرض وغربي فلسطين اتبنتك وصل بسفن حرية مغطى برايتي بعودتك مكون من جسد وتزوق طلقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي ظلمة الا بوحدة الشعب الا برجوع الارض ارض تناديكم خدر المعادي بشد على الايادي بالايادي بساعد مع حم الموت قلبه طابق بالصوت عبو رافض السكوت وصاحب عين الصوت اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف الضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامة بغفلة تمل خدر بلحظة خرجت ادموع بلحظة الشموع تتخطى الوداع هو الابقى بالحق رمز إرادة الشعب احكي في توريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر سيف توريو أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة احكي في توريو احنا إلنا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد انت فلسطيني فيك انت فلسطيني وأنا أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض e 19:33 minuti primi in ascolto dai microfoni di Radio Default. Andiamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento analisi sulla Palestina occupata e questa settimana di nuovo con il nostro consueto giornale radio. Ricordiamo i contatti della radio www.radiodefault.it per essere aggiornati sui nostri eventi, sulle nostre iniziative e per vedere i podcast delle trasmissioni precedenti. Mentre potete trovare sulla nostra pagina Facebook Radio Default le nostre essere aggiornati in tempo reale per ciò che succede in questa radio e anche in ciò che succede nel resto del mondo. E poi c'è il nostro contatto Skype, radio.default, dove potrete avere la possibilità di fare domande, lanciare minacce ed imprecazioni, però oggi Skype è staccato. Ricordiamo poi ovviamente questa domenica a tutte e tutti a Montegentile, dalle 9:30 fino alle 5 di sera, per l'iniziativa de La mia vita è differente, che è una delle trasmissioni della nostra radio. E quindi partiamo con il nostro consueto giornale radio. Thank you. Consueta, iniziamo con le notizie dalle carceri. Continua lo sciopero della fame contro la detenzione amministrativa. I prigionieri politici palestinesi sono giunti al 43esimo giorno di sciopero della fame contro le politiche di detenzione amministrativa, una pratica legale risalente all'occupazione britannica che permette la carcerazione di chi è considerato un pericolo per lo Stato senza bisogno di addurre prove né agli imputati né ai loro avvocati. Iniziata ai detenuti amministrativi lo scorso 24 aprile, questa mobilitazione ha visto anche il sostegno degli altri detenuti, decisi a proseguire lo sciopero fino a che il sistema carcerario sionista non soddisferà le loro richieste. Gravi sono state le contromisure degli occupanti, che stanno cercando di rompere la determinazione degli scioperanti chiudendoli in isolamento, sequestrando gli oggetti personali, negando le visite familiari e negando l'accesso al sale, che mescolato all'acqua diviene l'unico apporto nutritivo per i manifestanti. L'Associazione Israeliana dei Medici ha anche denunciato che il governo Netanyahu ha richiesto l'inizio della nutrizione forzata, una pratica estremamente dannosa per la salute, che durante lo sciopero della fame del 1982 ha provocato ben 3 vittime. Secondo la TV sionista, sono già 70 i detenuti trasferiti in ospedale per le precarie condizioni di salute risultanti dalla mobilitazione. E passiamo alle notizie generali, dove un terzo dei palestinesi vive in stato di insicurezza alimentare. In una dichiarazione congiunta, il Palestinian Central Bureau of Statistics e il World Food Program hanno dichiarato che nel 2013 circa un terzo delle famiglie palestinesi ha vissuto in condizioni di precarietà alimentare, un dato in rialzo del 6% rispetto all'anno precedente. Secondo i due organismi, questo aumento è dovuto all'impennata della disoccupazione, all'inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari e alle politiche sioniste di sabotaggio dell'economia palestinese. Già nel settembre 2012 la West Bank venne scossa da violente manifestazioni contro il carovita, che videro i dimostranti chiedere l'annullamento del protocollo di Parigi, il trattato siglato nel 1994 dall'entità sionista e dall'OLP, in cui venivano regolate le relazioni economiche tra le due entità. E giura al nuovo governo di unità nazionale. Inascoltate le sinistre. E lunedì 2 giugno ha finalmente giurato il nuovo governo tecnico di unità nazionale, sostenuto da Hamas e Fatah. L'esecutivo sarà nuovamente guidato dal precedente premier dell'ANP, Rami Hamdallah, e si occuperà dell'organizzazione di nuove elezioni entro 6 mesi e di proseguire sulle linee guida politiche dell'OLP, cioè le trattative diplomatiche con l'entità sionista e soprattutto il prosieguo degli accordi di cooperazione con le forze militari occupanti. Gli scogli principali delle trattative sono stati superati da una mediazione che ha visto Riyad al-Maliki, un fedelissimo di Abbas, sedere al dicastero degli affari esteri e la preservazione del Ministero degli Affari dei Prigionieri, come chiedeva il movimento di resistenza islamico. Immediata è giunta la reazione del governo sionista, che con la scusa di non voler collaborare con un governo sostenuto da Hamas, ha subito dichiarato il congelamento delle relazioni diplomatiche con l'OLP e l'avvio della costruzione di 1.500 nuove unità abitative nelle colonie della West Bank e di Gerusalemme. Aperture invece da parte delle cancellerie occidentali, con il segretario statunitense John Kerry che ha dichiarato il sostegno al nuovo esecutivo in quanto promettente esecutore dell'agenda politica filo-occidentale, e seguito subito dopo dall'alto rappresentante dell'Unione Europea, Catherine Ashton. Sui negoziati non sono mancate le accuse da parte delle due principali fazioni di sinistra, il Fronte Popolare ed il Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina, che lo scorso 20 maggio hanno accusato Hamas e Fatah di non aver coinvolto nei colloqui le altre fazioni e di essersi limitati a chiedere le liste di eventuali tecnici da cooptare nel prossimo esecutivo. Sebbene questo evento politico potrebbe porre fine alla divisione sorta nel 2007 tra le due principali organizzazioni palestinesi, non si pone in considerazione di esaminare la frattura più grande, cioè l'accettazione degli accordi di Oslo del 93, madre di tutti i contrasti successivi. E passiamo agli aggiornamenti regionali, passiamo ad Al-Quds, dove è stata nuovamente invasa la moschea di Al-Aqsa. Oggi 160 coloni, protetti dalla polizia dell'occupazione, sono entrati nella spianata delle moschee dalla porta dei marocchini, dove hanno tentato di svolgere dei riti talmudici. Il responsabile di comunicazione della Al-Aqsa Foundation ha dichiarato che il rito è stato impedito dagli avventori musulmani, 40 dei quali sono stati poi identificati dalla polizia sionista. Per gli estremisti sionisti, la moschea, il terzo luogo sacro dell'Islam, è il sito del Tempio di Re Salomone e ne rivendicano il possesso organizzando periodicamente delle invasioni che spesso si concludono in scontri tra i palestinesi e le forze dell'occupazione. E passiamo alla West Bank, a Nablus, dove sono stati rapiti 8 militanti del Fronte Democratico. All'alba del 1 giugno, numerosi veicoli militari sionisti hanno invaso un villaggio a sud di Nablus, rapendo 7 cittadini appartenenti al Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina. Durante la retata, le forze d'occupazione hanno invaso decine di abitazioni, perquisendole e distruggendone il contenuto. Contemporaneamente, altri soldati hanno invaso il campo profughi di Al-Azza, a nord di Betlemme, rapendo un palestinese di 22 anni. E rimaniamo sempre a Nablus, dove è stato ucciso un commerciante al checkpoint Zatara. La notte del 2 giugno le forze d'occupazione che sorvegliavano il posto di blocco di Zatara hanno ucciso Ala Muhammad Awadode, ci scusiamo per la pronuncia, dichiarando di aver reagito a un attentato suicida. La famiglia di Ala Ode ha dichiarato che l'uomo, gestore di un negozio di telefonia mobile, aveva deciso di avvicinarsi a piedi al posto di blocco per ritirare una partita di telefoni per la propria attività commerciale, mentre il suo taxi lo aspettava alla fine della fila. L'uomo, 30 anni, lascia una moglie e due figli. E passiamo a Ramallah, dove ci sono 3 feriti durante la manifestazione a sostegno dei prigionieri. Musica. 3 manifestanti palestinesi sono stati feriti mentre le forze d'occupazione caricavano la manifestazione a sostegno dei detenuti politici in sciopero della fame di fronte al carcere di Ofer. Gli scontri sono iniziati dopo che l'esercito sionista ha iniziato a sparare dei lacrimogeni e delle bombe sonore, per poi proseguire con le cosiddette pallottole di gomma, proiettili di acciaio ricoperti di plastica. Decine di manifestanti sono stati ricoverati per intossicazione da gas. E passiamo all'Italia esteri, all'Italia, dove sono state consegnate a Roma 7.000 firme contro Mekorot. Giovedì 29 maggio gli attivisti del Comitato Romano per l'Acqua Pubblica hanno manifestato di fronte al Campidoglio la loro contrarietà agli accordi commerciali tra Acea e Mekorot, la società idrica sionista responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale in Palestina. I compagni hanno consegnato al gabinetto del sindaco Marino oltre 7.000 firme di altrettante persone provenienti da Roma e da 60 paesi del mondo, inclusa l'entità sionista. La Mekorot ha l'appalto della fornitura idrica nelle colonie della West Bank, spesso sottraendo risorse agli stessi palestinesi, ed è stata oggetto di boicottaggio da parte di numerosi governi europei e latinoamericani. E passiamo alla Sardegna, dove ci sono proteste contro la sponsorizzazione sionista al festival Leggendo Metropolitano. E sono nate delle polemiche a seguito della sponsorizzazione di alcune iniziative del festival letterario Leggendo Metropolitano da parte di enti diplomatici e culturali dell'entità sionista. Lasciamo la parola a Fawzi Ismail, presidente dell'Associazione di Amicizia Sardegna-Palestina, intervistato dal quotidiano Cagliari Pad. Fawzi Ismail, tu sei il rappresentante dell'associazione Amicizia Sardegna-Palestina. È iniziato ieri il festival Leggendo Metropolitano e tra i partner risulta esserci l'ambasciata israeliana. Che giudizio avete? Purtroppo un giudizio negativo, mi dispiace per anche gli organizzatori che di macchiare un evento così interessante e importante nella città di Cagliari con il patrocinio dell'ambasciata israeliana, che tra l'altro continua a patrocinare il muro dell'apartheid in Palestina, ha patrocinato o patrocina ancora e sponsorizza come Stato israeliano la colonizzazione, la segregazione razziale, l'apartheid in Palestina, e questo non fa onore né a Cagliari né all'organizzatore, cioè all'organizzatore di questo evento molto interessante. Tra l'altro vorrei anche dire una cosa, che nella l'Israele e le sue rappresentanze politiche e diplomatiche nel mondo usano la cultura come mezzo di propaganda praticamente per abbellire la faccia di Israele. E ci sono anche parecchi soldi nel Ministero dell'Esteri israeliano, cioè stanziati proprio appunto per quello, per abbellire, per fare propaganda israeliana tramite la cultura, l'arte, lo sport, no? In Europa e nel mondo intero, per coprire i crimini che commettono tutti i giorni nei territori palestinesi occupati. Tra l'altra cosa, a livello mondiale c'è un boicottaggio nei confronti di Israele in atto. Infatti noi diciamo c'è una campagna internazionale del BDS, cioè del boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele, finché Israele non rispetta i diritti umani, non libera la Palestina e non è diventare un Stato normale con rispetto dei diritti dei palestinesi, la scarcerazione di migliaia di palestinesi, allora fino a quel momento Israele va boicottato come è stato fatto allora contro il Sudafrica dell'apartheid. È un mezzo di non violento di boicottare Israele, boicottare la guerra. Tra le altre cose, molti dei prigionieri stanno facendo sciopero della fame e della sete da diverse settimane. Sì, infatti questi giorni sono centinaia di, diciamo, di palestinesi, prigionieri amministrativi, che vengono chiamati così perché amministrative, perché praticamente sono detenuti senza capo d'accusa, senza nessun motivo e senza neanche la possibilità di avere la possibilità di parlare con un avvocato. Per chiudere un aspetto positivo, nel calcio la squadra della Palestina per la prima volta è alle finali della Coppa d'Asia. Beh, sicuramente questa almeno una piccola soddisfazione che viene dal calcio, e questo è anche uno schiaffo morale a quello che ha organizzato l'anno scorso i campionati dell'Europa in Israele invece che in Palestina. E noi ringraziamo nuovamente Cagliari Pad per l'intervista. E passiamo alle iniziative. Il 7 giugno a Roma ci sarà un'iniziativa I Beduini del Negev, esistere è resistere. Sabato 7 giugno alle ore 18 a Sopace Palestina e Soccorso Sociale per i Palestinesi presentano una giornata di proiezioni, incontri e mostre fotografiche sui beduini del deserto del Naqab. Coordinerà l'incontro il professor Wasim Dahmash dell'Università di Cagliari. L'evento si terrà presso la comunità di base di San Paolo a via Ostiense 152B a Roma, appunto. Sono le 19:54 minuti primi, si conclude così la nostra puntata odierna di Radio Cufia, il giornale radio e gli approfondimenti e le analisi sulla Palestina occupata. Noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 19:30, con i nostri consueti approfondimenti bisettimanali. E ovviamente ricordiamo tutti e tutti di venire, di passare domenica ai campi sportivi di Monte Gentile per l'iniziativa sportiva organizzata dai compagni che tengono anche una trasmissione in questa radio sulle disabilità, La mia vita è differente. E quindi noi vi auguriamo buona libertà a tutte e a tutti in Palestina, in Italia, ai Castelli Romani, e un abbraccio speciale a Gianluca e Adriano. بتأسف الوطن من أجل دمك أخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها أخي قد ما يوصفك